puntata. Ormai la nostra storia volge al termine, vero? E prima di narrare l'ultimo anno di vita e poi la morte, ci rimangono tre capitoli molto interessanti, che certamente verranno seguiti da tutti col fiato sospeso, così prevedo. E sono i tre capitoli che riguardano, che trattano in modo specifico i fatti straordinari nella vita del santo curato d'Ars. Precisamente, primo, intuizioni e predizioni. Secondo, i miracoli. Terzo, i fatti mistici della sua vita. E come vedete si tratta di argomenti interessantissimi e direi anche di grande attualità, se vogliamo, dato anche lo sviluppo attuale della parapsicologia. Tutte cose che certamente conforteranno la nostra fede in Cristo, ma anche la nostra fede nell'aldilà. Quell'aldilà che Gesù Cristo ci ha annunciato con la massima chiarezza e di cui un giorno saremo partecipi anche noi, speriamo vivamente di esserlo nella gioia. Vediamo allora, carissimi, di iniziare oggi il primo di questi tre interessanti capitoli, intitolato Intuizioni e predizioni del curato d'Ars. E vogliamo anzitutto, col nostro biografo, rispondere a questa domanda. Come il curato d'Ars vedeva e sapeva? E per rispondere a questa domanda penso che non ci sia niente di meglio che narrare subito un episodio. E l'episodio è il seguente. Il 3 settembre 1856 giungeva ad Ars una persona molto nobile, vale a dire un conte, con tanto di castello, e vi giungeva con una sua giovane domestica di nome Maria, affetta da sordità. Dobbiamo dire subito, carissimi, che come molti uomini della sua generazione, e come del resto della nostra generazione, vero, il conte non aveva fede. Ma comunque aveva sentito parlare del curato d'Ars come di un taumaturgo, un guaritore. Per cui era venuto a visitarlo per chiedergli la guarigione della povera giovane. Ebbene, era riuscito a farsi strada e a penetrare nella chiesa, ma desiderava qualcosa di più, cioè voleva trovarsi anche per un momento a faccia, tu per tu, col servo di Dio. Assicuratosi che Maria, la domestica, sarebbe rimasta vicino alla porta della chiesa, dopo avere molto atteso, poté finalmente avvicinare Don Vianney, che confessava in sacrestia. «Signor curato, potreste guarire la mia domestica?» Attenti alla risposta. «Ah, Maria, sì, la vedo nel coro. Ma scusate, signor curato, scusate se vi interrompo, ma Maria non è nel coro, è in fondo alla chiesa». Beh, a questo punto allora noi ci chiediamo chi dei due aveva ragione. Aveva ragione il buon curato di campagna, che diceva di vedere questa persona nel coro, oppure aveva ragione il gentiluomo che affermava di saperla in fondo alla chiesa? Beh, cominciamo a dire che il nostro signor Conte aveva sentito il curato chiamare la sua domestica per nome, pur non avendola mai vista né conosciuta. Ma non poteva essere questo un puro caso? Maria in fondo è un nome tanto comune, vero? Ma il conte vuol rendersi più sicuro e scende giù in fondo alla chiesa, vicino alla pila dell'acqua santa, per vedere se trova la sua domestica. Ma con sorpresa si accorge che Maria non c'è più. Cerca fuori della chiesa, fra i pellegrini che entrano ed escono, ma non gli riesce affatto di scorgere la sua domestica. La cerca ancora in fondo alla chiesa, poi nel mezzo, poi dovunque, ma sempre invano. Allora si decide a entrare nel coro. dove appena mezz'ora prima Don Vianney diceva di averla vista. E difatti la scopre là, dietro l'altar maggiore, in preghiera, vicino a un confessionale, in un posto dove al curato d'ar sarebbe stato impossibile vederla, anche dalla soglia della sacrestia. Ebbene, l'incredulo stupefatto narrò la cosa e ne fece una chiara descrizione a Don Toccanier, che immediatamente scrisse il racconto con tutti i particolari. Poi, quando la narrazione fu finita, il giovane missionario disse al conte: «E ora, signor conte, vorreste porre la vostra firma sotto questo racconto? Perché no, è la verità». E ora il sacerdote controbatte e dice: «E come spiegate voi questo fatto?» Risposta: non ci capisco nulla. In ogni modo, il curato d'Ars non ha gli occhi come gli altri». Ecco, notate questa risposta: il curato d'Ars non ha gli occhi come gli altri. Un giorno un parrocchiano di Ars fu udito che diceva: «Io credo che quest'uomo veda qualcosa». Ed è, penso, carissimi, quasi certamente l'ipotesi più esatta, e cioè Don Vianney non arrivava alla cognizione di ciò che rimane nascosto alla generalità degli uomini attraverso congetture, attraverso supposizioni, no. Ma aiutato da una speciale grazia di Dio, egli, per così dire, vedeva. Vedeva chiaramente le cose, come stavano, vedeva chiaramente il futuro. E qui, carissimi, dobbiamo dire col biografo che in soggetti eccezionali, vero, eccezionalmente dotati, disposti, si sono potuti constatare fenomeni di lucidità straordinaria, vero, per esempio di doppia vista o di vista a distanza. Ma si tratta qui di fenomeni naturali ai quali i dotti hanno dato o cercano di dare anche oggi spiegazioni convincenti. Ma non è questo il caso del curato d'Ars. In lui la spiegazione al fenomeno è data da altre cause, è data dalla chiaroveggenza soprannaturale, cioè chiaroveggenza recatagli da quel dono che la teologia mistica chiama intuizione, dono di Dio. Dunque la gente, la folla che lo circondava ogni giorno non si ingannò per niente quando vide in questo fatto straordinario e meraviglioso una manifestazione ultraterrena e anche un segno di santità. Ora, carissimi, riferiamo la testimonianza di un sacerdote, padre Fevre, che fece molte visite ad Ars. Egli ci riferisce alcune cose interessanti. Sentiamolo direttamente da lui. Attenti cosa dice: «Ho inteso dire che molte persone hanno consultato il curato d'Ars sulla loro vocazione, su processi, su questioni di famiglia, malattie, eccetera, decisioni da prendere, eccetera. E hanno sempre ricevuto una risposta piena di verità. A molti ha predetto avvenimenti che si sono poi realmente avverati. A moltissimi ha svelato lo stato della coscienza e le disposizioni dell'anima, fino a causare in essi la più profonda sorpresa. Per cui si era ormai formata nel pubblico la persuasione che egli godeva di doni soprannaturali, e quindi senza esitazione si prestava fede alle sue parole». Ecco, attenzione però, carissimi, qui va detta anche una precisazione importante. Tale intuizione non era in lui un dono continuo, né gli era dato di leggere in tutti i cuori, come in un libro aperto, no. Ma più spesso i suoi consigli erano il frutto della prudenza umana, vero? Ma attenti, dobbiamo anche dire che in molti casi, prima ancora che gli si indirizzasse la parola, Lui manifestava già al visitatore ciò che questi avrebbe voluto dirgli e anche ciò che avrebbe voluto nascondergli, E per questo, proprio per questo motivo alcune persone venute per vederlo non osarono presentarsi a lui nel timore che scoprisse lo stato della loro anima e della loro coscienza. E dobbiamo inoltre dire, carissimi, che si è cercato molte volte da parte di coloro che più lo avvicinarono, si è cercato di conoscere il segreto di queste sue cognizioni soprannaturali, ma egli, per sviare un'inutile curiosità e più ancora per la sua umiltà profonda, si accontentava di rispondere: «È un'idea che mi è venuta in testa». Oppure diceva: «Faccio come gli almanacchi, quando indovino, indovino». Attenti, si presentò un giorno al suo confessionale una giovane della Savoia. E prima che dicesse lo scopo della sua visita, Don Vianney le parlò della pietà di sua sorella, pensate, e della sua attrattiva verso la vita religiosa. Costei, uscita dalla chiesa, manifestò la sua meraviglia a Don Toccanier, il quale più tardi chiese al santo: «Ma come avete potuto rivelare tali cose senza conoscere questa persona?» Risposta: «Ho fatto come Caifa, ho profetizzato senza saperlo». Ma attenti, quando lo sorprendeva una domanda improvvisa e senza lasciargli il tempo di riprendersi, lasciava da parte la facezia e l'umorismo e si tradiva da solo senza accorgersi. Don Toccanier racconta che un giorno gli fece a bruciapelo questa domanda: «Signor curato, quando si ha la visione soprannaturale di una cosa, è senza dubbio come se si avesse un ricordo, vero?» «Sì», rispose, e aggiunse: «Un giorno, per esempio, ho detto a una donna: siete dunque voi che avete lasciato vostro marito all'ospedale e vi rifiutate di raggiungerlo? Ed ella mi rispose: come lo sapete? Io non ho parlato con alcuno». Ebbene, io ero più sorpreso di lei. Credevo mi avesse già raccontato tutto. Attenti, qualche volta, mentre confessava, non solo dovette ammettere la sua chiaroveggenza soprannaturale, ma ne diede anche la ragione. E a questo riguardo registriamo il seguente episodio. Si confessava un giorno una giovane domestica in servizio presso una famiglia di Ars. Stava per accusarsi di una colpa grave, ma tacque, pensando che l'avrebbe confessata più tardi. «Ma è questo?» domandò il santo, precisando quanto si voleva nascondere. «È questo, non lo dite. Non lo dite e l'avete fatto». Stupita da tale improvvisa rivelazione, la penitente pensava al modo col quale il curato avesse potuto conoscere la sua colpa. Ed egli, pensate, rispondendo a questo semplice pensiero che si era formato dentro di lei e che da lei non era stato assolutamente manifestato, aggiunse: «Me lo ha detto il vostro angelo custode». Ebbene, più volte è sembrato che le intuizioni e predizioni del curato d'Ars fossero in urto con le più elementari regole della sapienza umana e anche talvolta in contrasto con altri consigli venuti da persone ritenute assai prudenti. Un giorno una giovane di Lione disse a sua madre: «Io credo che questo buon curato vaneggi». E dobbiamo ricordare, carissimi, che a questa giovane di Lione il curato d'Ars aveva predetto che sarebbe stato un giorno superiore di una casa di carità. Ma i fatti però diedero ragione al santo, veramente, Insomma, si era obbligati a rendere omaggio alla sua sicurezza di vedute e a confessare che vi era in lui nascosta la luce di Dio che lo illuminava. Beh, facciamo un piccolo stacco, carissimi, poi riprenderemo questa storia affascinante. Ora, carissimi, passiamo alla narrazione specifica e sistematica di una serie di fatti, una serie di episodi straordinari, che certo ci terranno impiegati parecchio, sicuramente a Dio piacendo, anche per la prossima puntata, che è doppia, vi ricordo ancora. Dividiamo il lavoro in tre fasi. Primo, intuizioni e predizioni. Secondo, fatti visti a distanza. Terzo, la lettura del pensiero. Beh, cominciamo a dire che per narrare tutti i fatti di intuizione attribuiti al curato d'Ars occorrerebbe un grosso volume e anche molto tempo a disposizione, che noi non abbiamo. Per cui noi ci dobbiamo accontentare di narrare solo alcuni episodi, i più significativi. Ebbene, voi sapete che la questione dell'avvenire, no? Di sapere cosa sarà nel futuro, è per tutti, ma specialmente per la gioventù, una preoccupazione e spesso un vero tormento. Per questo, quando si divulgò la voce che il curato d'Ars leggeva nei cuori e che davanti a lui si aprivano i veli che tengono occulto l'avvenire, Ars divenne la meta di tutte queste anime ansiose di conoscere i propri destini. Per esempio, la giovane Rosalia Berliu, che divenne in seguito assistente generale delle religiose mariste, aveva una sorella minore inclinata alla mondanità, che non sapeva cosa fare. Era entrata in noviziato, ma ne era uscita quasi subito, si disse, per mancanza di vocazione. Allora aveva deciso di passare al matrimonio, ma prima delle nozze pensò di domandare un consiglio al santo. «Volete sposarvi?» rispose il servo di Dio. «Credete di non trovare nel matrimonio altro che rose? Invece non troverete che spine». La ragazza partì da Ars delusa e in occasione di un nuovo pellegrinaggio si presentò ancora al santo, che la lasciò con questa decisione inaspettata. «Entrate nel convento delle suore di Santa Chiara, nelle Clarisse». E la madre al ritorno le chiese: «Ti ha detto anche che vi sarai ricevuta?» E su questo il curato d'Ars non era stato interrogato e non aveva quindi avuto occasione di dire una parola. Si fece allora un terzo viaggio ad Ars e il santo riaffermò il suo detto, aggiungendo: «Sarete ricevuta presso le suore di Santa Chiara, siate perseverante, morirete là e andrete in cielo». Difatti la giovane Berliu entrò in quel convento, vi rimase 24 anni in austerità e là morì dopo una vita edificante. E alla sua morte la madre priora commentò: «Quale morte invidiabile». Beh, adesso una serie di episodi più brevi, carissimi. Un giorno del 1855, la giovane Bossan confidava un suo segreto al santo curato. «Padre mio, ho intenzione di sposarmi presto e vi prego di benedirmi». Ma il santo, guarda un po', invece di benedirla, cominciò a piangere. «Figlia mia, come sarete infelice! Ma che devo dunque fare, padre mio?» «Entrate subito nella visitazione. Non avete ancora 50 anni per fare la vostra corona». Ebbene, la giovane Bossan, divenuta Suor Maria Amata, morì maestra delle novizie nella visitazione di Fourvière, all'età di 49 anni e qualche giorno. Difatti il curato aveva detto: «Non avete ancora 50 anni per farvi la vostra corona». Ora un altro episodio interessante. Un'altra giovane di nome Edvige sembrava avere particolare tendenza alla vita claustrale, ma la sua famiglia le si opponeva irriducibilmente. In un inizio d'anno la povera giovane si recò ad Ars per confidare al santo la sua pena.

nella vostra vocazione? E prima che partisse da Ars, la volle rivedere. La vostra anima è bianca, molto bianca. E ora andate a fare la vostra professione. Padre mio, voi sapete che sono troppo giovane. Tutto è pronto, figlia mia, anche la vostra croce, andate. Ebbene, quando Suor Maria di Gesù varcò la soglia dell'ospizio di Lione, dove doveva fare una visita per incarico della superiora, la portinaia le consegnò un piccolo involto. «È per voi, suora»,